24 mattino. Le 8 e 15 minuti, 349-238-6666, questo è il numero per i vostri messaggi. Abbiamo anche una bella mail, 24mattino@radio24.it. L'economia. Soldi e dintorni. Eccoci con Deborah Rosciani. Perché ridi sulla bella mail? Perché è proprio bella. Una bella mail. Allora, eccoci qua. Deborah Rosciani. Parliamo oggi del bene rifugio primario. Sì, per eccellenza. Per eccellenza. Lo sapevi che un abito da uomo, oddio, del XVI secolo in Inghilterra al tempo di re Enrico VIII costava l'equivalente di un'oncia d'oro, prezzo che si può pagare anche adesso per un abito moderno. Puoi andartene a comprare uno con un'oncia d'oro. Oggi, cari ascoltatori, la prendiamo da lontano. Siamo tornati un po' indietro nel tempo, ecco, per far capire a tutti una cosa che comunque avranno già capito in molti: l'oro riesce a mantenere il proprio valore nel tempo e in tempi di crisi e fuga dai mercati azionari come quello attuale, basti pensare che ieri con la caduta di Wall Street, l'ennesima, le lancette del tempo del mercato azionario si sono riportate indietro al 1997, c'è chi punta su quei settori che manifestano una relazione inversa all'andamento degli indici di borsa e la tendenza tipica dei metalli preziosi, l'oro in particolare, che da sempre, come dicevamo prima, è considerato un bene rifugio perché consente di coprire il nostro investimento dai rischi di inflazione e dalle fluttuazioni anche delle valute. Ma come si può investire in oro? Questa mattina ce lo facciamo spiegare da due interlocutori. Intanto Maurizio Mazziero, analista del settore commodities, materie prime. Mazziero, buongiorno e benvenuto a Soldi e Dintorni. Buongiorno a tutti. E buongiorno anche a Roberto Binetti, amministratore delegato di Confinvest, che è una finanziaria privata ed è fiduciaria delle principali banche per le monete e metalli preziosi. Binetti, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, intanto siamo arrivati. Mazziero, comincio con lei. In un momento di sfiducia generalizzata sull'investimento, quello più noto in questo momento ovviamente è il mercato azionario, quello obbligazionario, si sente forte la necessità di asset materiali, di beni autentici, e questo è il motivo per cui l'oro ha ritrovato il suo massimo storico, si è riportato proprio in questi giorni a $1,000 e l'oncia. Qual è la tendenza del mercato? Sì, la tendenza del mercato è quella di proseguire questo tipo di rafforzamento dovuto anche al fatto proprio del bene rifugio. Io però diciamo che non vorrei nascondere una certa cautela al momento. Vediamo l'approssimarsi di quota 1000 se viene effettivamente superata e il prezzo si situa per alcune sedute al di sopra di quota 1000, perché io in questo momento mi aspetterei più un piccolo ritracciamento, ripiegamento. Il fenomeno è dovuto soprattutto al fatto che in questo momento io credo c'è una differenza rispetto al passato approssimarsi a quota 1000. In quel momento ci trovavamo con un prezzo del dollaro che era molto più svalutato rispetto all'euro. Oggi il dollaro tutto sommato è abbastanza forte rispetto all'euro, eppure siamo vicini ai $1,000 l'oncia. Penso che questo sia più che altro guidato da banche centrali asiatiche che in questo momento stanno smobilitando i loro asset in obbligazioni in dollari per sostituirle con oro. Con oro, e quindi stanno ricostituendo le proprie scorte, questo sta portando sui prezzi, mentre nei mesi passati avevamo attribuito questo forte rialzo del prezzo alla forte domanda che veniva dalle economie emergenti, dalla Cina e dall'India, adesso c'è un fattore aggiuntivo e comunque sono sempre quelle aree che stanno dettando il prezzo, Mazziero. Sì, di fatto sì, possiamo anche dire Cina e India sono fra i maggiori consumatori comunque di oro, sia per la gioielleria che poi anche come riserve valutarie. Allora, poi sulle tendenze di mercato ci ritorneremo, però andiamo un po' proprio al pratico. Roberto Binetti, i motivi, dicevamo, per cui si investe in oro sono rimasti gli stessi nel corso della storia: riserva di valore nel tempo, un bene rifugio, un'alta liquidità, diversificazione. Ma che cos'è esattamente un investimento in oro? Perché noi immaginiamo solamente, non so, magari quella piccola dote che abbiamo in casa fatta di gioielli, anelli, collane e quant'altro, ma in realtà, per esempio, un investitore privato conserva ancora, non lo so, l'abitudine, se c'era in passato, di investire in oro attraverso lingotti come quelli che vediamo nei fumetti? Ma sicuramente sì, noi abbiamo fatto una specie di indagine. Secondo noi nelle cassette di sicurezza italiane ci sono ancora 350 tonnellate di oro, ma non di oro come intendeva lei, orificeria, proprio oro fisico, sterline, marenghi e lingotti acquistati negli anni 70-80, proprio come bene rifugio. Però non riterei più l'oro solo esclusivamente un bene rifugio, ormai è uno strumento, un investimento, cioè uno strumento che in due anni è aumentato del 60%, che dà delle garanzie certe, che ha sempre a disposizione il fisico, pertanto non il cartaceo, non può più essere considerato solo esclusivamente un bene rifugio, è uno strumento di investimento con il quale si possono fare delle gestioni dinamiche, speculare, insomma, ripeto, un 60% in due anni non è poco. E il trend non è certo al ribasso, perché le banche centrali ormai non possono più vendere, la richiesta di oro è notevole, i risparmiatori sono preoccupati. Noi come Confinvest, con sede qui a Milano, noi consigliamo dei piani di accumulo, per esempio, fino ad arrivare al 20% del proprio patrimonio immobiliare. Fatto 100, la sommatoria e tutto il cartaceo, i titoli di Stato, azioni, fondi, contanti, secondo noi un buon padre di famiglia dovrebbe investire dal 15 al 20% in oro fisico, ecco, proprio in oro fisico, per garanzia per il futuro. Ecco, tra l'altro ricordiamo che la compravendita di oro fisico è disciplinata oggi da una legislazione molto, molto, molto attenta, che comunque è molto recente nel nostro paese, Binetti. 2000 disciplina il settore, il mercato, però purtroppo ci sono ancora degli operatori occasionali, negozi, negozietti eccetera, che non sono autorizzati dalla Banca d'Italia, e pertanto il privato investitore oppure lo stesso privato che vuole vendere monetato aureo o lingotti acquistati in precedenza deve fare molta attenzione. Ecco, questo noi come Confive lo diciamo, lo ripetiamo, lo scriviamo. Il settore è proprio disciplinato da una legge abbastanza ferrea, che addirittura prevede la reclusione ai non autorizzati, ecco, in caso di intermediazione. Cioè, bisogna fare molta attenzione. Proprio allora ci dia qualche suggerimento pratico. Ci dovessimo trovare nella necessità di disfarci appunto di un po' di oro che abbiamo in casa adesso, non sì, voglio però, dire di oro intendiamo sempre, ecco, monete oro, pertanto non la gioielleria, che questo è tutto un altro tipo di discorso. Noi parliamo, perché lì si può andare banalmente dal gioielliere da 900 millesimi a 1000, cioè le monete d'oro, le sterline, i marenghi, i lingotti. Innanzitutto ci sono delle quotazioni indicative, ma sicuramente le possiamo anche definire certe anche sul Sole 24 Ore, nella pagina delle materie prime, pertanto fare attenzione, guardare sempre con attenzione queste quotazioni e basarsi su queste quotazioni. Dopodiché ovviamente bisogna, come dicevo prima, affidarci ad aziende, a strutture autorizzate dalla Banca d'Italia come Confinvest, ecco, cioè strutture che danno un'assoluta serietà sia nei pagamenti sia nella vendita di questo materiale, che deve essere tutto materiale certificato, deve essere materiale sempre fatturato senza IVA e senza commissioni. Questo è un fondamentale del settore. Allora, magari prima del termine della trasmissione ribadiremo di nuovo queste regole assolutamente importanti da seguire per poter individuare l'interlocutore giusto anche per un affare di questo tipo. Tornerei però al mercato. Maurizio Mazziero, parlavamo di oro fisico in questo momento. In realtà negli ultimi anni, per poter investire sulle materie prime in generale, ma in particolar modo sui metalli, sono nati molti strumenti di investimento, no? Abbiamo per esempio gli ETF, ci aiuti a capire che cosa sono, ma anche i fondi di investimento che puntano sulle materie prime legate appunto ai metalli, sulle materie prime e sui metalli. Sì, dunque penso che siano molto interessanti gli ETF, sono quotati a borsa italiana, come lo sono quotati, ve ne sono in tutto il mondo, ma in particolare per i metalli preziosi vi sono degli ETF, ed è bene andare a vedere che abbiano la specifica fisico. Cosa significa questo? Significa che il fondo investe diciamo il suo capitale acquistando direttamente dei lingotti, siano essi di oro, di argento piuttosto che di palladio o platino, e vengono poi custoditi in diverse banche sparse per il mondo. Ecco, quindi a questo punto qui non ci troviamo di fronte al fatto di di avere degli asset cartacei, ma in realtà ad ogni quota che noi acquistiamo corrisponde effettivamente una piccola proprietà di quell'oro che viene custodito nelle banche. Poi ci sono i fondi di investimenti, dicevamo, ma sono proliferati sul mercato di recente anche i cosiddetti certificati. Sì, i certificati mercati che anche loro, ve ne sono alcuni molto interessanti perché possono agire a leva, quindi guadagnare o anche perdere molto più di quello che è il movimento sottostante, o ve ne sono alcuni che vengono definiti con il nome quanto e che non presentano solo a scadenza però il rischio di cambio tra euro e dollaro. Volevo ritornare a Binetti ancora sull'oro fisico e tornare un po' a dare qualche regola di base ai nostri ascoltatori che magari intendono approcciarsi ad un mercato di questo tipo in un momento come questo in cui tutti gli altri segmenti di mercato non offrono un grande paracadute e una grande sicurezza. Allora, che cosa dobbiamo fare, Binetti? Partiamo da zero. Mi perdoni, volevo continuare il discorso del collega. Sì, è vero, gli ETF sono garantiti da materiale, si presume che ci sia questo materiale, però sì, nell'immaginario collettivo dei risparmiatori italiani c'è esclusivamente il fisico, cioè il risparmiatore vuole il fisico, non vuole portarsi a casa un certificato, ma vuole o lasciarlo presso di noi, presso il nostro cavò, o comunque mettere in cassetta di sicurezza il fisico, cioè ha la certezza assoluta solo se vede il materiale. Questo per dopo 30 anni di esperienza ha capito insomma che, come dire, l'orientamento è questo. Abbiamo 30 secondi di tempo, Binetti. Ripeto, adesso il vedere, il toccare, il possedere monete d'oro, lingotti che non... Allora, per chi lo vuole comprare e magari non sa chi rivolgersi, che cosa deve fare? Non c'è nessun problema. Noi, per esempio, portiamo avanti da anni o dei piani di accumulo, lo può pagare anche ratealmente. Ci sono delle quotazioni certe, si fanno le quotazioni, si fa un programma di investimento che può partire anche da 1000 euro, non c'è bisogno di investire tonnellate di denaro, cioè ognuno secondo le proprie possibilità fa degli investimenti in oro. Noi pensiamo che, come dicevo prima, il massimo di un investimento per fare una logica, un equilibrio proprio di settore, di risparmio, sia il 20% di tutto il... Infatti, come ci indicava anche prima. Come dicevo prima, ecco, il massimo sia questo. Va bene, la ringrazio perché dobbiamo salutarci. Tra l'altro ho scoperto che ci sono lingotti che in genere pesano un chilo, ma ci sono anche lingottini di soli 5 grammi, Alessandro, se ti interessasse. Ah, benissimo, uno di 5 grammi lo prendo. Va bene, alle 12 che fai? Alle 12 oggi mi occupo di prestiti di nuovo, soprattutto ci focalizziamo sulla cessione del quinto dello stipendio. Le 8:33 minuti, uno sguardo alle ultime notizie. Il Tesoro americano è pronto ad aumentare la propria quota nelle banche in difficoltà. Il primo gruppo interessato è Citigroup, in cui il governo federale potrebbe salire al 40%. Ieri intanto ancora male, Wall Street ai minimi dal 97. Il 40% dei latitanti rumeni si trova in Italia, lo ha detto il ministro della giustizia di Bucarest. Intanto ieri il ministro degli esteri Frattini ha incontrato il suo omologo rumeno. Serve più cooperazione, ha detto Frattini, e i rumeni condannati devono scontare la pena in patria. Oggi vertice italo-francese a Roma. Silvio Berlusconi e Nicolas Sarkozy firmeranno una serie di accordi, tra questi l'alleanza guidata dalle due controllate di Stato, Enel ed EDF, per costruire 4 centrali nucleari in Italia. La prima dovrebbe essere operativa nel 2020. Infine il calcio, stasera torna la Champions League con l'andata degli ottavi di finale. In campo le prime due italiane, Inter Manchester United e Arsenal Roma. Domani Chelsea Juventus completerà la sfida Italia-Inghilterra. Ed è il momento del commento del direttore del Sole 24 Ore, oggi sul trionfo del film Millionaire ieri agli Oscar e alcune riflessioni che porta questa notizia. L'asterisco di Ferruccio De Bortoli. I premi Oscar vinti dal film The Millionaire, al di là dell'indubbio valore artistico della pellicola girata da Boyle, ci consentono di trarre qualche insegnamento positivo sulla globalizzazione e un piccolo messaggio di fiducia anche italiano. Il film è costato solo 15 milioni di dollari. Se fosse stato prodotto nella vera Hollywood, sarebbe costato 3 volte tanto e forse non sarebbe mai apparso nelle sale. La crisi cinematografica americana ha penalizzato le sigle indipendenti, ridotto la sperimentazione e sacrificato le idee più originali e di qualità a vantaggio delle produzioni di sicuro successo al botteghino. Senza la globalizzazione non avremmo avuto quindi film come The Millionaire. Ma non è solo una questione di bassi costi che fa vincere la Bollywood indiana, ma soprattutto uno straordinario concentrato di competenze non solo artistiche ma tecniche, come dimostra la statuetta vinta per il miglior messaggio. Insomma, il premio Oscar della globalizzazione non si vince solo tenendo bassi costi e salari, non basta. Si vince soprattutto esaltando le competenze, anche tecniche ed artigianali. Se ci pensiamo bene, sono qualità soprattutto italiane. Buona giornata. Grazie e buona giornata. Ferruccio De Bortoli, che troveremo domattina alle 8:35 minuti, 349-238-6666 per i vostri messaggi. Abbiamo sentito anche nelle notizie, insomma, che ho riepilogato, il 40% dei latitanti rumeni si trova in Italia. Questo lo ha detto il ministro della giustizia rumena, che ha dato altri dati. Ieri il ministro Frattini ha incontrato l'omologo rumeno. I vescovi romeni ieri hanno chiesto scusa, hanno detto crimini mortificanti quelli che riguardano alcuni dei nostri concittadini. Insomma, il tema di cui si discute in questi giorni è: ma esiste un'emergenza criminalità legata soprattutto alla Romania? Io voglio salutare il senatore Pier Giorgio Stiffoni, buongiorno. Buongiorno. Della Lega. Allora, senatore, partiamo inevitabilmente da una dichiarazione che lei ha fatto qualche giorno fa, insomma, che ha fatto discutere moltissimo. Io la leggo testuale, mi dica se c'è qualcosa, qualche parola sbagliata. Se un extraterrestre... Sta leggendo un'ansia, per fatto. Sì, vediamo. Se un extraterrestre scendesse sulla Terra e mi chiedesse qual è la specializzazione dei rumeni, gli risponderei: lo stupro. L'apertura delle frontiere ad est è stata la più tremenda iattura. Questa è la sua dichiarazione. La confermo in toto. Beh, con questo non voglio dire che non ci siano anche moltissimi romeni in Italia che lavorano dalla mattina alla sera e mandano i soldi a casa e che sono venuti magari in Italia a rifarsi una vita e lavorano onestamente. Però quello che... ce ne sono anche di buoni, dice. Ma certo, ma ne conosco anch'io moltissimi. E meno male. Però capisce bene che questa recrudescenza di atti di questo genere, di stupri, fa pensare che ci sia una propensione da parte delle etnie straniere e soprattutto dell'etnia romena. Ci sono dei dati inconfutabili che parlano che la propensione appunto allo stupro degli stranieri sia addirittura di 13-14 volte più alta di quella degli italiani. Cos'è, senatore, l'etnia rumena? Io non la conosco, lei sa che esiste un'etnia rumena? Io non come lo so. Come c'è un'etnia italiana, come c'è un'etnia svizzera, cioè gli abitanti, cittadini romeni, chiamiamoli come vogliamo, però c'è un certo tipo di propensione, diciamo, però lei, da insomma, parte degli stranieri. Con questa o dichiarazione questo... lei sostanzialmente inevitabilmente ha detto che quando dice la specializzazione di un popolo, dei rumeni, è sostanzialmente lo stupro. Guardi, identifica le due cose. È a fare dei distinguo, però insomma. Volutamente la mia dichiarazione era una provocazione, nel senso che adesso il ministro Frattini, ma non solo da adesso, chiede per esempio che i romeni scontino, come previsto dagli accordi bilaterali tra Italia e Romania, la pena per i reati commessi in Italia nelle carceri romene. Ma questo mi sembra doveroso e sacrosantamente giusto. L'avete detto anche voi nel nostro notiziario poco fa, che il 40% dei latitanti romeni è qua in Italia. Ora, in epoca non sospetta, quando è stato aperto Schengen ai nuovi paesi d'ingresso in Europa, immediatamente, contrariamente a quanto è successo in altre parti d'Europa, dove hanno messo moratorie di 2 anni, in quel momento, aprendo improvvisamente le frontiere, c'è stato un problema. In Italia ci sono riversate centinaia, migliaia di cittadini, usiamo il termine cittadini e non di etnia, romeni in Italia, che hanno, se mi permette il termine, infestato tutto il nostro paese. Addirittura. I dati sono questi. Sa. Sì, guardi, ieri c'erano. Sono, ieri sono c'erano dati del Ministero, mi scusi, sa, ma sono dati del Ministero dell'Interno. Allora, ieri sono stati pubblicati dal Corriere della Sera. Guarda. Effettivamente ci sono dei dati che dimostrano che su alcuni reati c'è una maggiore incisività dei cittadini rumeni. Però capisce la forza, l'impatto della sua dichiarazione. Io capisco, lei ha fatto anche una dichiarazione shock, insomma, per voler un po' magari anche provocare, però l'identificazione c'è, è forte, scusi, voglio dire, le parole scusi, hanno anche un peso. Sì, ma guardi, non ho nessunissimo problema. Il punto è che se vogliamo veramente, come dicono a gran voce, arrivare a uno spirito di sincero europeismo, che dimostrino la buona volontà intanto i romeni, prendendosi tutti i loro concittadini che hanno fatto dei delitti e di una certa gravità in Italia, si riprendano tutti. Punto primo. E dopo, indispensabile per conto mio è quello di rivedere Schengen per quanto riguarda appunto l'ingresso di certi cittadini che sono diventati europei, che evidentemente non hanno ancora una maturità europea, se mi permette, perché visto come si stanno comportando. È una maturità europea, sono dell'Unione, ma secondo lei la Romania dovrebbe essere messa fuori dall'Unione Europea? Non ho detto questo, io ho detto che ci sono ancora le garitte non smantellate al nostro confine orientale, da dove entrano. Rimettiamo in funzione e controlliamo chi entra, perché è entrato di tutto. È indubitabile questo, è inutile fare del falso buonismo. Senta, senatore, le chiedo, oggi notizia sui giornali, una vicenda in provincia di Roma dove un manovale di 31 anni, Mihai Radu, è stato investito, era rumeno, è stato investito da Valentino Gavetti, 24 anni, ubriaco, drogato, non si è fermato, poi si è presentato dopo ai carabinieri dicendo ho travolto qualcosa, aveva travolto invece un rumeno uccidendolo. Per il PM non c'è pericolo di fuga, è stato messo subito a casa agli arresti domiciliari. Fosse successo al contrario, non crede che sarebbe il titolo di apertura dei giornali oggi? Io non vedo nel colore della pelle trattare in una certa maniera chi delinque e in un'altra maniera altro tipo di persone. No. I delinquenti sono delinquenti, punto e basta. Io dico una cosa però, i delinquenti in Italia ne abbiamo già abbastanza, ne siamo sommersi, e importarne anche gratuitamente mi sembra proprio non sia il caso. Questo sì, però non possiamo neanche chiudere le frontiere, possono arrivare anche dalla Francia i criminali, dalla Spagna. Fare dei controlli. È possibile. E sulla libera circolazione come facciamo? Nel trattato di Schengen è scritto espressamente che su necessità del paese è possibile richiudere le frontiere, anche temporaneamente. C'è scritto nel trattato di Schengen. Io faccio parte del comitato Schengen parlamentare, pertanto queste cose, se mi permette, le conosco. È possibile, se è ritenuta l'emergenza e l'esigenza di fare questo tipo Quindi di cose. Quindi lei chiuderebbe temporaneamente le frontiere con la Romania, temporaneamente, non lo so, farebbe o più controlli o le chiuderebbe proprio per un certo periodo? Io comincerei intanto con un esperimento di un breve periodo e vediamo quanti verrebbero respinti alla frontiera. Cioè proprio di chiusura totale per un breve periodo. Non chiusura totale, mi scusi, se i controlli. Controlli serrati. Chi è? Allora, se si presenta, l'avete detto voi che il 40% dei latitanti romeni sono in Italia. Sì. Se ci fossero state le frontiere, questi sarebbero stati bloccati o sbaglio? Questo sì, però vedi che mi dà ragione. Questo anche dalla Francia succede, c'è la libera circolazione. Ma soprattutto, le dico, ne abbiamo talmente tanti che proprio farci male da soli andare a prendere altri. È come quello che vuole far dispiacere alla moglie, insomma. Ecco. Va bene. Io, senatore, la ringrazio per Giorgio Stiffoni, senatore della Lega Nord, la ringrazio per essere stato con noi per parlare di questo tema che ancora oggi riempie le pagine dei giornali. Il traffico, poi Garlasco, il delitto di Garlasco, è il giorno in cui c'è l'udienza preliminare, è il giorno in cui si comincerà a capire qualcosa, Alberto Stasi andrà o no a processo, non è che si capirà oggi, però si inizia oggi a capire, guerre di perizie e circo mediatico che si sta riaccendendo. Le 8:46 minuti, allora io voglio andare subito a Vigevano perché oggi si apre l'udienza preliminare delitto di Garlasco, l'uccisione di Chiara Poggi, 13 agosto 2007, un delitto che insomma non solo quell'estate ma da allora, con guerre di perizie, controperizie, con interviste, non interviste, ha un po' catalizzato l'attenzione sono quei grandi delitti che diventano anche delitti mediatici. L'unico indagato è Alberto Stasi. Oggi o nei prossimi giorni si deve decidere sostanzialmente in udienza preliminare se mandarlo a processo oppure no. Voglio andare da Cristiana Lodi che per Libero scrive dal primo giorno di questa vicenda. Cristiana, buongiorno, si trova ovviamente a Vigevano. Buongiorno a voi. Allora, leggevo di 100 giornalisti accreditati, insomma, si sta riaccendendo il circo mediatico? Sì, si sta alzando il sipario su quello che potrebbe, che sarà il processo dell'anno. Tenevo a sottolineare che proprio in questo momento è arrivata la famiglia Poggi, sono arrivati i genitori di Chiara a Palazzo di Giustizia, comincerà alle 9.30 l'udienza preliminare, appunto come diceva lei il giudice Vitelli dovrà decidere se prosciogliere o mandare a processo Alberto Stasi. Ecco, diciamo che l'orientamento generale da quello che si può evincere dai corridoi del tribunale sarebbe proprio questo, insomma, le intenzioni sarebbero quelle di mandare a processo Alberto Stasi, nonostante diciamo l'impianto accusatorio si basi soprattutto, anzi solo ed esclusivamente su degli indizi più che su degli elementi probatori fondati. La guerra di perizie sarà sempre così, ormai si dice non c'è più il modo di investigare di una volta, chissà se è vero, comunque sta di fatto che ci saranno perizie contro perizie. Alberto Stasi ci sarà, perché questo è un altro... Alberto Stasi ci sarà, dovrebbe esserci, ieri gli avvocati hanno confermato la sua presenza, quindi salvo controordini dell'ultimo minuto l'imputato dovrebbe essere in aula e non è neanche escluso che nelle prossime udienze possa fare delle spontanee dichiarazioni, perché non si risolverà tutto oggi ovviamente, anzi oggi sarà una giornata puramente tecnica in quanto le difese già hanno annunciato che solleveranno moltissime eccezioni, cioè contesteranno moltissimi atti di indagine portati avanti dalla procura di Vigevano allo scopo di invalidarli. Non solo, ieri è stata consegnata anche una memoria difensiva, per cui non si può escludere che il giudice decida anche subito un rinvio per poter esaminare questa nuova documentazione. Ricordiamo anche che sono due i procedimenti per i quali si procede. Uno riguarda l'omicidio appunto di Chiara e l'altro riguarda il reato di pedopornografia contestato a Stasi per il materiale pornografico trovato sul suo computer. Nel computer. Sono comunque due processi paralleli e che viaggeranno separatamente. Non si sa se il giudice darà priorità eventualmente prima all'uno o poi all'altro. Però di fatto sono due procedimenti paralleli. Io tra l'altro vorrei salutare un giornalista, collega, scrittore, Cesare Fiumi, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, Cesare Fiumi, per chi non lo conoscesse, insomma, per tanti anni ha raccontato sul Corriere Magazine in maniera straordinaria, con una prosa straordinaria, peraltro per me erano imperdibili ogni giovedì, i decine di delitti della Porta Accanto. Tutto questo è poi diventato anche un libro, Assassini della Porta Accanto, edito da Mondadori. Ecco, Fiumi, è proprio quello di Garlasco, come quello di Cogne, come altri delitti, è proprio il contrario dei delitti che in genere racconta lei, quelli che vanno in tre righe sui giornali. Che tipo di considerazione si può fare rispetto a questi delitti di Garlasco, invece quello che è il delitto della Porta Accanto, che avviene tutti i giorni? Ma, innanzitutto questo è un delitto della porta chiusa, no? Sono i delitti dove quello di Garlasco, dove il rapporto è proprio tra perizia, investigazione e difesa, non c'è soltanto un indagato, c'è stato un indagato sempre, è una situazione molto anomala per un grande giallo. Noi siamo abituati per esempio adesso alla storia di Perugia, pensiamo a Nox, Ghedè, Sollecito, tutti e tre insieme, uno solo, come cosa, quest'altra è una storia un po' diversa, però volevo far presente questo, che questo è un giallo che in realtà in teoria non nasce così appassionante e nasce forse come un delitto della porta accanto, come quelli che ho raccontato io. C'è soltanto un particolare, diventa mediaticamente molto interessante, diciamo, ed entra in una sorta di circuito differente dai delitti di cosiddetti di banalità del male che poi si risolvono in poche righe sui giornali, perché entrano in scena le due cugine di Chiara Poggi, il famoso fotomontaggio della foto, e in qualche modo mediaticamente la storia assume un un'importanza diversa, un interesse diverso. Da lì poi l'interesse per il giallo, per il delitto non risolto. Ma quindi bastano, a volte ci sono dei particolari esterni, delle concause che fanno di un delitto cosiddetto qualsiasi, un delitto di Stato in qualche modo di cui si parla, insomma questo sarà un grande processo. Certo, un delitto della porta accanto potrebbe essere anche perché insomma l'unico indagato in fondo è quello che era il fidanzato, insomma quello di una vita tranquilla, una vita di paese. In teoria è un delitto più freddo, ecco, cioè non c'è una grande, non c'è una tavolozza di possibilità, insomma non c'è nessun altro Mister X che in questa storia è presente, sarà tutto un gioco procedurale, tutto un gioco molto tecnico tra indizi, difesa, tra perizie, controdeduzioni, insomma, è un po'... ecco, credo che senza la storia delle due cugine che fa esplodere mediaticamente questo caso, forse Garlasco poteva restare probabilmente in seconda fila come tanti altri delitti di cui non si parla, insomma. Sì. Ecco, perché invece comunque i delitti anche che ha raccontato, insomma i delitti della porta accanto hanno un loro fascino? È la banalità del male a cui faceva riferimento oppure che cos'è? Ma innanzitutto perché raccontano l'Italia, o almeno quest'Italia qui, è un'Italia dove i delitti sono assolutamente in diminuzione, ma sono delitti più tipici, e specie i delitti di fascia cosiddetta la fascia del PIL italiano, cioè tutti quei delitti nell'asse Torino-Trieste, tutti i grandi casi ultimi, tanti casi di questi che abbiamo analizzato io si svolgono su quest'asse, sono delitti da benessere quasi, da area molto sviluppata, e sono delitti da frustrazione, sono delitti la tela si strappa a seconda se la frustrazione è più vicina agli affari o agli affetti, delitti da porta accanto nel senso che si scarica la propria inabilità, il proprio disagio su chi ci è più vicino, insomma. Quindi più vicino può essere della casa accanto, certo. La porta del socio, dell'amico, certo. Ecco. In questo c'è una sorta di fascino, ovviamente di triste fascino, di triste attrazione. Ecco. Io ho 30 secondi, Cristiana Lodi, vorrei tornare per un attimo a Vigevano. Si diceva che la difesa di Alberto Stasi dice: ma come, è già stato praticamente condannato ancora prima di sapere se andrà a processo. Il dato di fatto è che però non c'è nessun Mister X, altro Mister X, come ha detto Cesare Fiumi, cioè dove guardare se non lì, molti si chiedono. Sì, è verissimo questo. Beh, anzitutto colgo l'occasione per salutare Cesare Fiume e mi complimento anche per i suoi assassini della porta accanto. Detto questo, anche voi avete sottolineato come Alberto Stasi sia stato fin dall'inizio in sostanza l'unico sospettato e l'unico indagato. Certo che se dovessimo fare un'osservazione in qualche modo anche critica, ma che comunque corrisponde ai fatti, è che al di là di Alberto Stasi forse non si è guardato, perché fin dall'inizio l'attenzione degli investigatori è stata concentrata su di lui e solo ed esclusivamente su di lui, quindi insomma alla luce del fatto anche che gli elementi probatori forti non ne sono stati trovati, forse un interrogativo. Beh, le cugine, se avessimo anche guardato altrove, le cugine adesso, forse sono state le cugine, per esempio le famose cugine K sono state analizzate, ma comunque Cristiana, io ti ringrazio. Cristiana Lodi di Libero, così come Cesare Fiumi, staremo a vedere, ovviamente si apre l'udienza tra mezz'ora e nei prossimi giorni vedremo se Alberto Stasi andrà o meno a processo. Noi ci dobbiamo fermare qui, ringraziando Laura Marchesi e Alessandro Marcotulli in redazione e Peter Bescapè in regia. 24 mattino è radio24.it, è la nostra mail, e ci ritroviamo domani.